poi la chiamano chimica. Sì, uno contro uno come gli animali. Che bella sensazione, l'aria sembra liquida. Sì, siamo fuochi artificiali in mezzo alle persone. Ti ho sognato in coda nel supermercato mentre fai la spesa, ma eri tutta nuda. Ti ho confuso con la mia ragazza proprio l'altra sera e poi le ho chiesto scuse. La chiamano chimica. Sì, quando non ci pensi ma ci pensi uguale, non servono parole quando cade la linea. Come la corrente non la puoi leccare, è come un'ossessione erotica. Comincia a mordere, sembri una vipera, ma sei bellissima quando ti senti libera. Sette giorni su sette nella stessa camera, mi prendi l'anima e poi la chiamano chimica. Quando siamo a cena fuori con gli amici, in tutta quella confusione, la mia perversione. Quando mi sorridi, poi la chiamano chimica. Sì, quando non ci pensi ma ci pensi uguale, non servono parole quando cade la linea. Come la corrente non la puoi leccare, è come un'ossessione erotica. A mordere, sembri una vipera, ma sei bellissima quando ti senti libera. Sette giorni su sette nella stessa camera, mi prendi l'anima e poi la chiamano chimica. Sette giorni su sette nella stessa camera.